24 mattino. 8, 17 minuti, 36 secondi. Visto così da lontano, con un girocollo blu, le cuffie calate sulla testa, lui si sbraca in segno di disperazione. Oscar Giannino sembra un cavaliere Jedi. Buongiorno ai cani e gatti. Eccoci qua, fratello. Ma dove è il cavaliere? Ma dove mi vedi? Saresti bellissimo. Sembro lo scimmione che guida l'astronave. Darth Vader e l'imperatore. Arriva Giannino, scende dall'astronave e grida: stato ladro! Ma che, figurati, me l'avrebbe bloccata la guardia di finanza anche nel film. Di sicuro. Ma l'hai visto? L'hai visto? Non ancora, no. Non ancora, no. Io ho visto questo bel film distopico del filone di fantascienza, Sette sorelle. Immagino un mondo dove c'è la legge che si può fare un solo figlio per non consumare il suolo, la terra, un po' sul modello cinese. Ecco, e un obiettore di coscienza fa crescere sette sorelle, ognuna delle quali vive solo un giorno alla settimana. Fantastico. Cioè una specie di aggiornamento distopico del grande musical tradizionale, invece sette spose per sette fratelli. Ecco, io parto dall'alto, dal letterario, dal coso. No, no, scusa, sette spose musical, per sette fratelli e l'alto, non il film che hai visto tu. Cioè, nel senso che fa parte di una tradizione grandissima con la T maiuscola, no, se permetti. No, ma sto scherzando, ovviamente è uno di quei film che proprio a Natale è bello. Dovremmo fare un giorno uno spazio, ma non abbiamo il tempo ora, dei film belli da rivedere cento volte. Ecco, questo sono d'accordo, anche perché scopriremo che infatti il tuo preferito qual è? Ma vedi, tu alla fine è un percorso che stai facendo. Io lo apprezzo molto perché i fratelli apprezzano quando i fratelli. Vai a vedere dei film nei quali l'incubo del comunismo con cui fai i conti nella vita ti si trasforma in scelta filmografica, capisci? Perché pazzo, l'imposizione. No, beh, ma è chiaro, sorelle, l'analista ti direbbe: l'incubo del comunismo. Ma come? Il figlio unico imposto per legge. Io poi sono figlio unico, quindi. Vabbè, ma non perché in Italia ci fosse la legge, come mancherebbe. No, perché mia madre si è autoregolamentata per motivi economici. Allora. 0024 per chiamare, 349-238-6666. Non trascurate i vostri messaggi mistici allo 02-30-22-4492 per la segreteria dei Già Svegli. E Sergio Boccadutri, deputato del PD in commissione bilancio, è qui ancora sveglio per noi dopo una nottata in commissione, ci dà proprio le last news. Che cosa è successo nel voto cruciale del dibattito più delicato dell'anno? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Ma tutta una tirata, neanche un sonnellino, che ne so, di due ore? Vabbè, dai, quando c'è da fare la legge di bilancio si fa. E poi dicono che siete fannulloni, voi parlamentari. No, ma poi si capisce perché escono norme un po' a piffero, secondo me pure. Perché il rischio c'è, cioè non solo per la salute. Ma devo dire che ci sono funzionari bravissimi, però che... Vi svegliano. Mi tengono svegli. Mi svegli. Allora, no. Che è successo? Qual è l'ultimo? Abbiamo visto il bonus sui dipendenti pubblici, 50 euro. Quali sono proprio le ultimissime novità? C'è qualche cambiamento rispetto alle... Qualcosa che abbiamo votato appunto, che quindi forse non si troverà sui giornali, ci sono alcune cose. Una è sicuramente una norma che evita le buste paghe false. Ah. Non so se ricordate voi la storia di Paola Clemente, quella donna appunto che andava nei campi nel 2015 morta di fatica, sì, che veniva pagata sostanzialmente in contanti meno di quanto riportava la busta paga. E la mia collega di TD Salvo, dopo 7 anni, è riuscita a far votare una norma, cioè lei ci lavorava quindi già da precedenti legislature, sì, affinché sostanzialmente lo stipendio sia pagato comunque in maniera tracciata. È tracciato, chiaro. Per evitare proprio che si queste basi, ma questo riguarda soprattutto i lavori più bassi, quindi per evitare, ed è una norma di civiltà, insomma. Poi sempre abbiamo fatto una norma per evitare sostanzialmente che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro possono essere sostanzialmente, può essere limitate nella denuncia. Secondo l'Istat, il 67% delle donne denuncia le molestie, ma sappiamo appunto che le molestie poi sono maggiori perché c'è anche, spesso avviene nel luogo di lavoro, e quindi c'è anche una difficoltà a denunciare, e quindi una serie di tutele nei confronti della donna lavoratrice nel momento in cui denuncia. E poi abbiamo proprio anche questa notte approvato un fondo sulla professionalità del docente, un fondo che si alimenta negli anni, partiamo con 10, poi 20 e poi 30 milioni e poi successivamente andrà rifinanziato, utile a stimolare e incentivare la didattica innovativa nei confronti delle nuove generazioni, cioè come anche i docenti che hanno mai una proprio abbiano una possibilità in più per approfondire gli strumenti della didattica anche nei confronti di giovani che utilizzano strumenti informatici in modo molto più lo sa veloce, che Oscar sta soffrendo quando no. sa che nella notte ci sono scuciture la legge di bilancio soffre no ma io più vorrei che fosse lì con una bacchetta un bastone da rapsode a urlare no non spendete un centesimo in più beh vabbè, no, ma, no, vabbè ma io vi stavo raccontando le cose insomma anche raccontate sì. Poi abbiamo fatto anche delle misure sull'antiriciclaggio e giochi. Senta, Boccalutri, ma lei, siccome glielo chiedo perché ha un'opinione su questo che ha tentato di far valere nella giostra, dico giostra, la giostra sulla web tax, perché nella giostra la web tax è partita in un modo, è diventata un altro, poi è diventata una terza cosa, adesso è diventata una quarta cosa, e le imprese italiane alla fine secondo me hanno ragione a preoccuparsi. Oggi per esempio su Repubblica c'è una pagina intera che dice ma che cavolo state combinando, e non è che anche lì è intervenuto il fattore, però, Oscar, il fattore sonno, no, perché la web tax nasce con l'idea di ci si inventa una base imponibile in disprezzo della legge italiana e quella internazionale, e neanche avendola concordata in Europa, pur essendo la posizione ufficiale che l'avremmo concordata in Europa con altri tre grandi paesi, invece ci inoltriamo in una tassa sul fatturato presunto per colpire gli over the top americani, di settore, no, dai. Poi diventa tutta un'altra cosa, in realtà finisce per tassare il commercio digitale e quindi anche le imprese italiane. Poi si dice ma il 6% no, diventa il 3%, un balletto. Allora Boccalutri, alla fine come uscirà? Intanto lei l'ha raccontata benissimo agli ascoltatori, perché proprio è l'ultima versione e questa è la mia posizione, non lo nascondo, l'ho detto anche in altre occasioni. Anzi, l'ultima, quella approvata invece due notti fa, purtroppo ne abbiamo discusso di notte, ma i tempi sono questi, è una tassa sugli investimenti e investimenti in innovazione e i consumi digitali delle imprese. Che così. È una nuova tassa delle imprese. Ma... Che entrerà in vigore nel 2019, quindi io mi auspico che intervenga appunto l'Europa ad aprile, perché ad aprile abbiamo questa grande scadenza in cui l'Europa dovrebbe... Cioè, lei si augura che venga silurata. Quanto gettito produrrebbe? Esattamente. Allora, è stata valutata dalla ragioneria 190 milioni. E Mucchetti, che era l'ispiratore della prima, dice non è vero, non capite nulla, non è vero. Cioè, beh, adesso io però no, non le chiedo di rispondere a questo, no. Ha ragione. Facciamolo litigare con Mucchetti. Ero contro, io non voglio stare né dalla parte, ha ragione, cioè, i due litiganti, ha ragione, invece l'ha usata come una bandiera, ha ragione. Purtroppo è diventata una discussione ideologica e quando si fanno le cose così si fanno male, ecco, e esatto. Penso che noi abbiamo messo una tassa in più alle imprese e questo dovevamo evitarlo, appunto. Questo è il pensiero di Sergio Boccalutri, che sono stata sempre coerente con questo, è vero, siccome lo so gliel'ho chiesto apposta. E credo che l'Europa, da questo punto di vista, siccome io sono convinto che ad aprile prenderà una decisione, perché ovviamente anche questa scelta ovviamente spinge ulteriormente l'Europa a decidere, perché altrimenti gli altri paesi fanno da sé e diventa un disastro, cioè ci facciamo mangiare... No, questa è una roba che va concordata, infatti. Esatto. E quindi, secondo me, questa forma di questa tassa non troverà mai... non avrà mai luce. Allora, grazie a Boccalutri, a cui concediamo il riposo meritato, l'onore delle armi. Mamma mia, le ultime norme, chissà cosa ci vi danno l'aggiornamento in diretta, così come vi raccontiamo lo battono i siti che in Argentina ci sono addirittura 80 feriti per le proteste contro una riforma previdenziale voluta da Macri. E Oscar, qual è la tua notiziola del giorno? Guarda, io voglio spendere, lo sai che fanno il Pandoro agli insetti? Non lo sapevi. No, lo so, perché ho visto sa anche un chi po' ha di nocciola. Ho letto anche qualcuno che ha detto mangiatevelo voi. Sì. Sa un po' di nocciola. Ma tu hai mai mangiato un insetto? Sì, non casualmente durante d'estate. Una puntata di Matrix, ecco. Perché c'era un imprenditore, li importava, fanno veramente schifo, però è la mia personale ma dipende da cosa sono cibati, un fine esteta di queste cose da buon gusto. Nemmeno io ho provato a assaggiare moltissimi anni fa una cavalletta fritta dicendo come il gamberetto, no, era amarissima, quindi, mamma mia. Comunque, detto tutto questo, no, io voglio spendere una parola controcorrente su ciò che ha detto ieri il capo dello Stato e traggo spunto da quello che il Messaggero ha oggi scritto su questo, con un fondo che dice: cambia ciclo politico, la ricreazione è finita per signore della protesta Alessandro Campi. Secondo me ha fatto bene il Messaggero, rispetto a tutti gli altri, a dedicare particolare attenzione alle parole ieri del Quirinale, perché è vero che l'informazione finisce per premiare sempre la polemica, no? Quindi ovvio, oggi tutto il focus è sull'interpretazione delle parole di Visco, il governatore. Ieri il governatore in realtà è stato coerente esattamente alle parole a cui il Messaggero, secondo me, bene, dà importanza, cioè quello del capo dello Stato. Il capo dello Stato ieri ha fatto un intervento che non becca grande attenzione nelle prime pagine, a differenza del commento del Messaggero. Perché? Perché è stato molto realista, concreto e poco polemico, anzi per niente. Ha detto: signori, il prossimo passaggio elettorale è molto importante e ci deve essere il minimo spazio possibile per la demagogia. Cari partiti, mi appello a voi, stiamo andando meglio in economia, il governo Gentiloni è moderato ma fa le cose con poche polemiche, in aprile, giugno ci sono scelte europee importanti, noi dobbiamo stare a quel tavolo e non dobbiamo evitare di starci perché diamo mattanate e prendiamo posizioni estreme. Quindi l'appello del capo dello Stato a essere concreti, fattivi e non populisti è un appello che nel fondo dei campi si declina bene, perché dice: in effetti la fotografia, al netto di tutte le polemiche, delle informazioni che ci monta la panna e dei capi dei partiti che ci devono fare la campagna elettorale montando la panna, però le cose sono esattamente quelle fotografate dal Quirinale. E tant'è vero che ieri il governatore della Banca d'Italia in realtà ha fatto un intervento in cui ha provato in tutti i modi a smussare le cose. Sì, ha detto ovviamente che Renzi gli aveva chiesto e lui ha detto: parlo solo con Padoan. Ha detto che la Boschi ha incontrato due volte il vice direttore Panetta, però non ha mai fatto pressioni. Però per tutto il resto, a differenza di Vegas della Consob, che ha alzato il livello della polemica, lui l'ha tenuto molto molto basso e si è fatto inquisire per 16 ore quasi, no, più di 12 ore ieri, guarda, è senza precedenti, un governatore della Banca d'Italia che dall'alba a sera inoltrata risponde alle domande. Non si è mai per un minuto fatto sfuggire una cosa. Allora, questa cifra della misura, secondo me, lanciata dal Quirinale, ripeto, il fondo Alessandro Campi, il Messaggero mi è molto piaciuto. Ecco, però, ogni Oscar, tanto noi dovremmo tracciare un anello, noi dovremmo di essere, interiore? Ecco, un po', cioè, così ogni tanto, un po' così, perché la realtà fa, è così. Sì, dimmi. Due mesi fa, se ti ricordi, si discuteva se Visco poteva essere riconfermato o no. Adesso esce fuori da queste 16 ore, hai ragione tu, di inquisizione, ma noi sappiamo che dialetticamente se vinci vale ancora di più, esce fuori come il garante delle istituzioni, degli equilibri, il chapeau di Renzi. Capisci? Che lo ringrazia. Obiettivamente è come dici tu. Una specie di trionfo senza precedenti. Per lui è un trionfo. Io penso che a maggior ragione Renzi dovrebbe ripensare le critiche del libro, mentre poi per anni ha taciuto quasi quando era Presidente del Consiglio. Sono stato un boomerang per lui, perché prima ha ottenuto la conferma di un Ignazio Visco che responsabilmente, tutti sapevamo, aveva detto anche: ma io, se serve, faccio anche un passo indietro, l'aveva detto al Quirinale. E secondo, dicendosi contrario formalmente alla sua conferma, ieri, perdonami, io mi aspettavo, l'ho anche twittato, mi aspettavo che a quel punto i commissari del PD nella commissione ieri tirassero fuori elementi fattuali di contestazione della Banca d'Italia sulla vigilanza. Invece gli hanno fatto tante domande, tranello e trabocchetto, però questi elementi concreti da parte del PD non li ho visti. Tipo domanda tranello? Ma per esempio gli hanno fatto un mucchio di domande sulle Venete, sperando che ci fossero delle contraddizioni tra lui e Barbagallo, un altro piccolo grande eroe di Banca d'Italia, perché si è fatto già 3 audizioni e invece non sono venute fuori. C'era un enorme imbarazzo ieri, perché per esempio ieri Visco ha volato altissimo nella sua audizione sul caso MPS, mentre ha parlato di più delle due Venete, e anche ha messo ieri, l'ho molto apprezzato il governatore quando ha detto: beh, noi dovevamo essere più svegli sia nel smaltire il monte dei crediti deteriorati delle banche con più fretta, e secondo, sulle due Venete dovevamo essere più svegli, l'abbiamo capito tardi, quello che succedeva solo fine 14 inizio 2015. Ecco, questo io l'ho molto apprezzato. Su MPS, come sa il PD, era evidente che camminavano su le sabbie mobili, eppure è uno dei casi più rilevanti in cui gli andavano fatte domande, anche perché sono

La campagna lanciata da Plan, Because I Am a Girl, vuole metterle in condizioni di vivere come bambine. Per aderire, Plan International Italia, www.plan-international.it. Mattino 8 37 minuti 20 secondi in diretta. Oggi i cani e i gatti fanno gli straordinari. Vi raccontiamo da quella commissione di bilancio in cui sono ancora reclusi i parlamentari dopo la nottata. Attenzione, questo è un emendamento che farà discutere su un tema molto divisivo. È stato prorogato il termine delle concessioni che era minacciato dalla Bolkestein. Stiamo parlando del commercio ambulante. Orrore perché nel commercio ambulante, orrore, sapete, ci sono state grandi proteste. Molti, orrore, dicevano la licenza va in fumo, l'abbiamo pagata, l'abbiamo presa. Perché orrore? Orrore, orrore. Ma se uno ha investito il capitale in un'attività, se l'ha investito, si fanno delle gare nelle quali chi è più investito più se la vedrà confermata, chi non ha investito no, e chi propone di investire di più se la becca. No, scusa. Ma per ora non c'era questo meccanismo, no, c'era l'azzeramento. Questo meccanismo, l'Italia, l'azzeramento si fa perché si fanno le gare, le concessioni non sono per sempre. Dalle concessioni balneari a ogni tipo di concessioni, la politica non fa altro che dire a chi la detiene senza investirci, ve le diamo ancora più avanti, ve le diamo per più tempo, ve le diluiamo. Questa roba è contraria agli interessi dei clienti, capisci? Ed è semplicemente pettinare l'interesse del titolare, che a quel punto non ha una concessione, ha una sinecura, una privativa vita. E questo paese non se lo fa entrare in testa la politica, che invece di raccogliere i voti tra poche settimane di chi è il titolare della concessione deve peggiora pensare. Sì, sì, sì, un'utopia. Sì. Non, cioè, pongo un'utopia, pongo quello che avviene negli altri. Ma domani la perde la licenza. Oh, santo Dio. Uno che al banco, banalmente, ha investito dei soldi, ha comprato la licenza, tu dici non la deve le avere. Le licenze, vita, sono d'accordo, non è che le licenze perde, si annullano. In questo modo non si perdono. Neanche per idea si fanno le nuove gare, sì, per le concessioni delle licenze, nelle quali chi ha investito vale come punteggio. Certo, c'è il rischio per chi non ha investito di perderla. Invece il politico dice a tutti, ricordatevi alle elezioni che io viele evito le nuove gare. Le concessioni devono essere a tempo, perché così a esercitarle siano le concessioni demaniali, ripeto l'esempio che tutti possono capire al volo, i bagni, gli stabilimenti. Però quella è un'altra normativa, il principio è lo stesso, concessioni, per cui la politica dice, raccogliendo le proteste dei concessionari contro le scadenze a tempo in cui si valuta l'efficienza di chi esercita la concessione, bene, te la faccio restare in tasca. Si privilegia l'interesse dei concessionari su quello dei clienti delle concessioni. È come per le concessioni autostradali, uguali, e infatti anche a loro, ai concessionari autostradali, i partiti gliele allungano. È lo stesso principio, gare o tempo per sempre, gare o tempo per sempre, gare o tempo per sempre, è sempre lo stesso principio. Molti dicono, ma vi mettete d'accordo? No, siamo proprio divisi per natura. No, ma discutiamo, lui è contro il mercato, qua. Io sono per il mercato. Io difendo chi fa mercato sulla piazza. No, tu difendi i titolari per sempre del diritto di fare mercato. Io voglio aprire, abbassare l'asticella di quelli che vanno a farlo e si confrontano per chi lo sa fare meglio. Sono due visioni del mondo. Tu difendi il privilegio. Io difendo la gara che valuta chi è più bravo. E la tua è più, gerarchica. Tu difendi il privilegio. Non è gerarchica, è gerarchico il privilegio del tempo acquisito. Il tuo. Il mio non è gerarchico, perché dice ogni tot anni le concessioni, Oscar, vanno in scadenza e si rinnovano. Ambulanti, ma certo, se parli con loro è come parlare neanche ma... in mezzo a una strada, Dio. Perché la loro licenza, se parli con loro, ti diranno che questa roba le azzera, perché non vogliono correre il rischio di essere valutati come nessuno. Tutti i giorni vai a vendere, Luca, le scarpe, il tuo le è un mondo chiuso, non ma aperto al mondo chiuso, certo, sei contrario alle gare, e le concessioni per te sempre devono valere secoli. Avremo le vecchie gilde medievali con questo criterio. Io ho rispetto per la gente che lavora. Anch'io, questa è la mia idea. Anch'io, perché chi si candida a farlo, chi si candida a farlo, è perché invece se non c'è la licenza al banco non potrà averla mai. Col tuo criterio non potrà averla mai, e magari saranno anche più bravi. È pieno di persone che sono entrati negli anni. Ma sei forte. Solo che non puoi, il punto zero, non puoi azzerare tutto la mattina e la sera. sentiamo non Maurizio è così. Questi sono i paradossi a cui si ricorre chi vuole difendere il mondo vecchio, e allora usa i paradossi, perché una gara non è che si azzera e finiscono per strada, ripeto, come non lo sarebbe per le concessioni balneari e così via. Non è così. Bene, Maurizio da Latina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuto fra i cani e i fegati, si difenda che qua qualche graffio colpisce. No, mai. Ma è il bello della vostra trasmissione, complimenti. Grazie. Molto brevemente, presumo purtroppo che l'ospite che stavate intervistando prima non ci sia più, mi dispiace perché è tornato in commissione, piacere. Boccadutri. Vabbè, comunque la domanda è la seguente. Allora, premesso, io ho un ristorante e ho pubblicizzato alcuni eventi tramite Facebook, ok? Quindi un social network dove, dato la mia carta di credito, a un tot di click, eccetera, si raggiungeva una certa ammontare che mi è stato scalato dalla carta di credito. Quindi io ho fatto un'attività di promozione, sì, che, come lei sa, sulle attività commerciali poi mi rilasci fattura e io me la porto in deduzione. Certo. Dove sta sta fattura? Non c'è. E fanno la web tax su un fatturato presunto. Cioè, prendiamo Facebook, ma quanti milioni di click può generare? Quindi lei sta dicendo che dovrebbe scattare l'obbligo di fatturazione, sta dicendo questo? Sì, io sto provando a cercare di ottenere la fattura, cioè è più semplice trovare un ago in un pagliaio, trovare la modalità per ottenerla. Oh, e che ridi, Oscar? Io sono d'accordo con lui. Tu non puoi sorridere. No, io rido. Perché non sono obbligato. Si è inventato, anziché prima ha dichiarato di voler seguire certe regole e armonizzarsi con altri paesi. Sì. E invece, come al solito, nella fretta e furia di incamerare soldini, cosa fa? Si inventa il fatturato presunto. Esatto. Quindi io rido perché sono d'accordo con lui. Luca, anch'io sono d'accordo con lui. No, perché tu invece tu brindavi alla tassa del fatturato presunto. Scusate, facciamo una somma banale di quello che ci dice Maurizio. Tutti in Italia devono fare fatture e tu sai quante ne facciamo noi, Oscar, anche se parli tre minuti alla Camera di Commercio del Friuli, per forza farlo, invece qualcuno è esentato. Io questo non lo capisco. Ci sono, come dire, qualcuno è più uguale e qualcuno è meno uguale in questo paese. Esatto, infatti per questo dico la tassa. Tassa sul fatturato presunto non si può fare. Paghi e fatturi anche a Maurizio con la sua carta di credito, la sua pubblicità. Grazie Maurizio. Grazie, buona giornata. Federico da Roma. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto fra cani e gatti. Grazie. Io volevo, se era possibile, accendere un riflettore su una legge, come al solito, all'italiana, che sta passando e di cui non se ne parla per nulla, che è la tassazione sulla sigaretta elettronica, che entro il 31 marzo vedrà la chiusura di almeno 3.000 attività, secondo me. Ma sai quanto ne abbiamo parlato? Noi ne abbiamo parlato, sì. Oscar è diventato il cavaliere crociato della sigaretta elettronica e io sono il suo palafreniere. No, al contrario. Sono contento perché nei grandi media, non so, a parte la piccola manifestazione che c'è stata sotto Montecitorio. L'abbiamo raccontata, ma lei dov'era? E lei ci ha tradito in qualche altra radio, tre puntate di seguito. E magari stava facendo sesso a letto. No, me lo auguro per lei. Me lo auguro per lei. Pazzo. Ma no, scusa. Addirittura adesso entra dentro la libertà sessuale. Ma neanche, ma ho detto me lo auguro per lui. Scherziamo. No, è passata anche la notizia che questa cosa aiuterà e favorirà soprattutto le grandi major del tabacco, perché sembra che poi la IQOS, che è l'unica sigaretta che vaporizza, diciamo, il tabacco, sarà anche agevolata nella tassazione, oltre a far passare tutto ai monopoli di Stato. Guardi, sfonda una porta aperta, come comunque abbiamo ricordato, noi qui abbiamo fatto una piccola campagna liberale sul che l'intera filiera possa passare solo attraverso le monopoli. È così, ma lo Stato è così, quando vede una cosa che si muove, capisci? La tassa, è così. Dice, ti muove troppo, ti incateno con una bella tassetta, è così. Allora, grazie a Federico, pubblicità, parliamo di grano, non grano soldi, grano quello vero. Fiat festeggia Disney Pixar Coco al cinema e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente loca. 500L è tua a 15.500 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento meno 1.000 anziché 16.500 euro. E in più, per tutte le famiglie, 1.000 euro di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria. TAN 595, TAE GOT 01, salvo approvazione FCA Bank. Fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it. The 24 mattino. E allora, siccome i cani e i gatti hanno l'ambizione di parlare alla classe dirigente reale di questo paese, siamo rimasti colpiti da una notizia di ieri sul Sole, la disfida del grano. Poche proteine, scarsa quantità, il frumento italiano cerca di recuperare quantità. Allora abbiamo al telefono con noi una persona che ci può spiegare che cosa sta accadendo. Cristiano Laurenza, buongiorno, rappresentante dell'Associazione dei produttori italiani. E che cosa succede? Buongiorno. Perché non abbiamo abbastanza, non riusciamo a coprire il fabbisogno e dobbiamo importare dall'estero, soprattutto grano duro? Sì, buongiorno a lei, buongiorno a Giannino e a tutti i radioascoltatori. Ma noi importiamo grano dall'estero dal 1800, importavamo circa il 70% del grano duro dall'estero. Questa quota si è nel corso del tempo erosa, si è andata erodendo progressivamente e ad oggi importiamo circa il 30% di grano duro dall'estero. Che però non è poco, tanto. Che non è poco. Anche perché è aumentato il consumo. È aumentato il consumo e soprattutto sono aumentate le esportazioni, quindi il fabbisogno di produzione di pasta è aumentato, quindi abbiamo bisogno di più grano e abbiamo bisogno soprattutto anche di grano di qualità. Circa il 30% del grano duro italiano oggi non è idoneo alla pastificazione o comunque possiede delle caratteristiche qualitative non adatte, perché noi abbiamo una legge di purezza, la legge 580 del 67, che quest'anno compie 50 anni, che prescrive di produrre pasta di semola di grano duro con determinate caratteristiche qualitative minime. Una di queste è rappresentata dalle proteine. Quindi andiamo a cercare i migliori grani provenienti da tutto il mondo proprio per assicurare quella, per rispettare la legge, ma noi siamo di gran lunga al di sopra dei parametri di legge, quindi per assicurare quella costanza qualitativa del prodotto che ci consente di mettere sul mercato un prodotto che tutto il mondo ci invidia. Certo, la pasta italiana. Quale esatto. Può essere l'obiettivo realistico di questo, anche di questo impegno che industriali e agricoltori raggiungono firmando un protocollo di intesa comune? Che cosa certo. Si può arrivare? Noi abbiamo delineato intanto un percorso di lavoro con chi effettivamente vuole fare per la filiera, vuole fare per il grano e vuole fare per la pasta, e quindi abbiamo una serie di obiettivi. Il primo di tutti, l'abbiamo già detto, è quello di fornire all'industria più grano italiano di qualità alta e di qualità e con delle pratiche culturali sostenibili. Vogliamo poi dare un forte incentivo all'agricoltura e sostenere l'agricoltura con dei meccanismi premiali, assicurare quindi all'agricoltore la giusta remunerazione in presenza di un grano di qualità elevata. Vogliamo, traduco, posso tradurre perché poi il certo. Mio mestiere è anche far capire chi è a caso. Allora, tra l'associazione Pastai e alcune associazioni di vasto seguito e una in particolare di grande seguito mediatico dei rappresentanti del mondo dell'agricoltura, si è aperto, caro Luca, negli ultimi due anni un confronto, perché per tentativo di fare elevare il prezzo del grano italiano, che non ha tutte le caratteristiche per essere il meglio, alcune parti di rappresentanza del mondo agricolo, quindi per far alzare il prezzo del grano italiano, hanno iniziato a dire: ah, i pastai usano pasta importata, si inventano scuse e così via, quando invece dovrebbero sapere per primi che le cose stanno come abbiamo detto adesso, cioè le qualità del grano necessario sono diverse, ci spingono a importare non è violazione dell'autarchia che molti tentano di ripristinare, perché il mercato aperto, la battaglia del grano, esatto, noi la esportiamo la pasta e abbiamo bisogno di farla bene. E allora questo protocollo serve a far convergere, tentare di rientrare le polemiche che dal mondo agricolo italiano sono state fatte contro i produttori, che servivano solo a far alzare il prezzo del grano italiano. Allora, tutto qui. Allora, questa maniera sintetica e un po' abrasiva mia del fondamento per il nostro ospite? Insomma, Giannino ha riassunto perfettamente. Lei, chiaro, non deve farlo, deve essere diplomatico. Oscar Pastaio, magari. Allora, grazie a Cristiano Lorenzo, era doveroso questo aggiornamento, lo ha fatto con molta chiarezza. Enrico da Milano. Enrico è caduto. Oscar, ma lo sai che nel Parlamento, ora ti dico quale, nel Parlamento albanese, noi che ci lamentiamo, c'è stata una manifestazione che ha fatto gridare golpe con fumogeni e bengala in aula, È una cosa che ho trovato sulla stampa, sempre attenta agli esteri. Speriamo. Noi sembriamo proprio mammolette. Mammolette, sì, ma speriamo di non vedere niente di simile. Non vorrei che... Ma l'hai visto il sondaggio sul Corriere? L'hai visto? No, sondaggio? Quale? Il sondaggio che fa la stima delle forze politiche? 280. Quello di lunedì, quello di domenica? No, non l'hai visto quello di oggi, scusa. Ah, c'è pure un nuovo sondaggio. Non è un sondaggio, perdonami, è la proiezione dei seggi. Però hai visto il centrodestra? No, beh, sì, la simulazione dei seggi. Ma io devo dirti che penso che sia sottostimato in questo momento. Il centrodestra ha 281 seggi? È banale, ma è matematica. Sì. Se il centrodestra fosse veramente nei sondaggi al 36 senza le due liste aggiuntive più quella degli animali che si sono create, diciamo che queste tre liste prendono l'1% uno, i centristi di Cesa, quindi tu la dici famosa che sfiorano quarta la maggioranza, secondo me sta al 39 e questo fa più o meno facilmente con un calcolo matematico sui 310 320 seggi. Sì, perché immagina che tu prendi il 39% dei 400 seggi, fa 160, di che prendi 150 collegi su 240 e sei a 310. E mi stai dicendo che c'è il governo Berlusconi? No, se ci sono questi numeri, quindi siccome questa è una simulazione data sui numeri, mancano queste voci. Fra l'altro oggi la notizia che abbiamo letto del Corriere, che la Bonino minaccia di non fare la lista se non le cambiano le firme. Il problema è che sono rimasti gli unici però che le devono raccogliere. Io spezzo una lancia per il fatto che il Parlamento capisca. Naturalmente questo significa che tutti gli altri non lo faranno, infatti i grandi partiti ieri. E infatti c'è un accordo di cartello, diresti tu, di oligopolio e tutti i partiti che non hanno bisogno come di raccogliere le firme con le concessioni, perché hanno una rendita con le concessioni. Bravo. Mi arrendo. Hanno fatto cartello e quindi la Bonino te le raccogli tu le firme. Attenzione, un'altra tegola su quella lista, sull'altra lista alleata Renzi, l'associazione I Prodi gli nega il diritto a mettere il ramoscello d'olivo. E anche lì credo che ci siano poche colpe, perché alla fine non dovranno metterlo. E quindi praticamente è un massacro. Mentre a destra proliferano liste e questa legge elettorale, come abbiamo spiegato fin dai giorni di approvazione, ma qualcuno ci diceva, ma perché ne parlate gambe? Male? Premia anche un polipo, i partitini. Gli 8 No, perché siccome è la quarta gamba, poi c'è la quinta, la sesta, la setta, a 8 diventa la un polipo. La sesta gamba e mezzo, e ci stanno pure gli animali, no? Allora, ma l'abbiamo recuperata la telefonata che era caduta? Porca miseria, questo silenzio. No, la Guardia di Finanza ha imposto. Io volevo sentire un ultimo ascoltatore. Lo so, il tuo amico concessionario ha fregato la Rai. Ma di la verità, i concessionari autostradali a te non ti fanno pagare per la battaglia che difendi a loro favore. Io vado col mio telepass e Benetton mi accredita i soldi. No, ti accredita ogni i soldi. Volta che difendi i concessionari autostradali, sì, sta facendo una dichiarazione, Telese, questa è la c'è verità. C'è un telepass argentato, che è chiaro a casa che stiamo scherzando. Quando facciamo questo, poi ho bisogno no di dirlo, perché ora arriverà qualcuno e dice vergogna, arrestatelo. Invece Ingroia peculato, questo è vero, accusato di peculato, questo è vero, però questo non è incredibile, sono ma le un notizie ex magistrato vere che uno preferirebbe ha che applicato fossero senti la legge italiana invece è quella siciliana che per la prima volta gli dava meno. A proposito di Sicilia, ieri Micci, che ne ho eletto con i voti del PD, anche annuncia dal 1 gennaio cade il tetto di 240.000 euro ai dirigenti della Regione Sicilia e torneremo a 400.000. Voglio l'esercito in Sicilia, l'esercito, come ha detto mio amico Alessandro Barbera. L'esercito. Andiamo a prendere lo stipendio dei dirigenti, Oscar. Ma no, nella Regione Sicilia. Ma io sono coerente, non è che lo voglio per gli altri, lo voglio per me. No. Battuta memorabile, battutaccia in diretta, il Telese Pass. Sì, il Telese Pass. E correte anche voi, sfrecciate sulle strade e ci sentiamo domani per i cani e per i gatti. Miau. Ciao!